Fratelli di settembre, è la perla di un risveglio questa, è la ricerca della verità, la strada per trovarla. Perla di un risveglio in me, è un risveglio nuovo. Nel sonno del mattino dove brulica un risveglio inaccecabile, come la coincidenza, frequenza radiomobile, promessa inossidabile. All'improvviso la follia, sono in fiamme come combustibile, ma in bilico nelle mie sfumature, perché sgomito, modello d'edizione come tonico, sapore dell'arsenico, nella migliore delle ipotesi condanno io l'indomito, dimentico, ammuffito, violentato come bipedi, paura di fallire se vociferi la verità, una protesi imbrigliata consuetudine. Sto perdendo il punto cardine, risveglio l'attitudine, ma io non mi appartengo, e la mia maschera che mente mi consola se commento, rivendico un diritto quando pensi di conoscermi, è la mia traccia nel tempo che vive come fossili. Del risveglio nell'insonnia, l'apatico elemento, la frazione che accartoccia, se è la vita quotidiana che mi abbraccia, è dall'impeto dell'ira che la verità mi agghiaccia, ma è la cornice che trapela e che incatena la titanza sulla carta, la mia diplomazia non ha importanza e mi commuove la natura quando piove la mattanza, e fra i cunicoli dell'ego una figura inaspettata sulla soglia, ma sono io che strego la brodaglia e plasmare la mia creta è come spremere meningi senza essere un profeta, e non è un viaggio che finisce da rotino ma salversa, tenetevi anche tutto, ma è una goccia che battezza il mio risveglio, la bellezza e la ricerca della verità e l'essenza. Bella di un risveglio in me, è un risveglio che non so. Questa è arte povera, fratelli di settembre.